أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. Buonasera, siete in diretta con una nuova puntata di Andala, notizie dal mondo e storie di internazionalismo proletario. Oggi è martedì 11 maggio, sono le 19.05 e siamo in collegamento con Davide che si trova a Milano. Ci senti Davide? Sì, vi sento forte e chiaro. Buonasera a tutte e tutti. Perfetto. Beh Davide, visto che è inutile oggi fare una scaletta, visto che certamente dobbiamo parlare purtroppo di quello che sta succedendo in Palestina, io direi di iniziare questa puntata appunto facendo una piccola rassegna stampa. Sì Michele, diciamo che la puntata è doverosamente dedicata prettamente a quello che sta accadendo in Palestina e che poi non è nient'altro che l'evoluzione di quello che vi raccontavamo già nelle settimane scorse rispetto alla situazione a Gerusalemme. Però prima di entrare nel dettaglio e soprattutto purtroppo elencare il conto dei morti da parte palestinese, data l'operazione militare che c'è stata ieri e che è partita contro la striscia di Gaza, tra l'altro poi gli israeliani danno sempre dei bei nomi alle loro operazioni militari, l'hanno chiamata i guardiani del muro questa che è scattata e che ha portato già alla morte di 30 palestinesi tra cui 9 bambini. Però prima di entrare parlare rispetto ai fatti, a quello che è successo, volevamo partire in una maniera un po' diversa questa volta, facendo appunto questa rassegna stampa di quelli che sono stati i giornali di questa mattina, per capire la nostra cara informazione pubblica, la nostra cara informazione, questi quotidiani che non so se la gente li compra, vabbè, che comunque si leggono, e cosa dicevano stamattina di quello che era avvenuto in Palestina, nei territori occupati. Il Corriere della Sera, scontri e razzi, battaglia a Gerusalemme. Il Giornale, attacco islamico, pioggia di razzi da Hamas. Il Messaggero, Hamas, attacco a Israele, razzi su Gerusalemme. La Repubblica, scontri e razzi, battaglia a Gerusalemme. Il Secolo XIX, Gerusalemme brucia, razzi da Hamas, Israele attacca Gaza. La Stampa, Israele brucia, morti e centinaia di feriti nella battaglia delle case. Il Dubbio, Hamas attacca Gerusalemme, pioggia di razzi da Gaza. Il Mattino, Israele torna alla rabbia, razzi su Gerusalemme. Il Domani, Israele risponde ai razzi lanciati da Hamas, scontri a Gerusalemme. Libero, piovono razzi da Hamas, torna la guerra in Israele. Il Messaggero, Israele torna alla rabbia, razzi su Gerusalemme. Per finire, Il Tempo, decine di razzi da Hamas contro Israele. Questa è la cara, i titoli dei quotidiani di questa mattina, è quello proprio per farvi capire come vengono raccontate, come viene raccontata l'apartheid in Palestina, perché se utilizziamo i termini appropriati, quella che avviene in Palestina è apartheid, e quello che è avvenuto in questi giorni, queste settimane, sono atti gravi che partono tutti dalla politica coloniale di insediamento israeliana, che per rivendicare la propria sovranità su Israele continua l'espulsione dei palestinesi da Gerusalemme Est e si è sostanziata nel tentativo di cacciare 5 famiglie da Sheikh Jarrah, ovvero circa 200 palestinesi, e mettere al loro posto i cari coloni ebrei, e questo è un crimine di guerra secondo la Convenzione di Ginevra, giusto per ricordare qualche cosa. Però proprio per voler farci del male fino in fondo, prima dello stacchetto e poi riprendere, vi leggiamo anche la nota della Farnesina, che qui più che equidistanza è proprio una presa di parte a favore dello Stato sionista.

Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Bene Davide, sicuramente questa canzone la dice lunga pure su quello che è il nostro punto di vista rispetto a quello che sta succedendo ultimamente. Davide, dicevi che avevi una cosa da leggere, poi io farei un po' il punto della situazione. No, ho più una cosa da leggere. Sai, sono un tipo che non si fossilizza spesso sui termini, vado più alla sostanza, però per quanto riguarda Israele e la Palestina e soprattutto quando parliamo di informazione e soprattutto di giornali che abbiamo letto sono quelli che poi indirizzano l'opinione pubblica, nonché la nota della Farnesina, ci teneva a fare un uso un po' più appropriato dei termini, perché si usa parlare di scontri quando ad esempio rispetto, poi entreremo nel dettaglio dopo, ti lascio la parola, ad esempio per quello che è successo nella moschea di Al-Aqsa si è parlato di scontri quando lì invece è in corso una repressione, e poi sentire per i telegiornali le forze di difesa israeliane, vorrei ricordare ai giornalisti, in particolare a quelli della RAI, visto che vengono pagati con i soldi pubblici, che più che forze di difesa si chiamano forze di occupazione, visto che c'è un'occupazione che va avanti da 73 anni in Palestina. E piuttosto che dire entrambe le parti, come usa dire anche la Farnesina, in questa finta equidistanza, che è poi una presa di posizione per Israele, perché ripeto, in questa nota si parla dei razzi di Hamas e non si parla di quello che è successo a Gerusalemme Est e alla moschea di Al-Aqsa, come se i razzi di Hamas piovessero così dal cielo, è sempre colpa di Hamas, è sempre colpa di Gaza. E quando non si tratta di due parti in conflitto, si tratta di oppressori e di oppressi. E più che parlare l'unica democrazia del Medio Oriente, io parlerei di un sistema di apartheid. Sono questi i termini giusti per quando parliamo di Palestina, della questione palestinese, perché con dei termini apparentemente che sembrerebbero neutrali, in realtà nascondono solo una presa di posizione di parte rispetto a fatti che vedono una potenza occupante bombardare indiscriminatamente civili inermi, come è avvenuto nella striscia di Gaza ieri e sta avvenendo in questo momento. Era giusto questa precisazione sui termini, questa precisazione linguistica che di solito non è da me, però rispetto alla Palestina è doveroso farla, anche e soprattutto quando facciamo riferimento ai giornali, all'opinione pubblica, perché è veramente indecente, per non dire vomitevole, utilizzare altri aggettivi, termini poco carini. Sì Davide, sicuramente fai bene a fare queste puntualizzazioni, perché purtroppo di informazione tossica ce n'è tantissima sull'argomento, e quindi come hai fatto bene a leggere un po' i vari titoli che sono comparsi sui giornali, perché purtroppo arriva sempre questa informazione distorta, dove sembra che è l'occupante che paradossalmente viene aggredito, insomma, dall'occupato, e quindi diventa la vittima della situazione e di conseguenza si deve difendere. In realtà la situazione è completamente diversa da questo. Però io vorrei un attimo, come dire, fare un passettino indietro e parlare di quello che è successo, magari per chi è meno informato sui fatti. Per fare ciò ovviamente mi avvalgo delle ottime informazioni che ci passa Michele Giorgio, quindi l'unico giornalista che è lui, assieme a pochi altri, Alberto Negri ed altri, si contano sulle dita di una mano, forse non ci arriviamo a 5, che comunque ci danno un'informazione corretta, vabbè, forse che essere un compagno poi. Sì. Infatti, meno male. Proprio per questo vorrei riprendere l'articolo che è uscito ieri e che è stato poi aggiornato oggi, in cui appunto Michele Giorgio ci dice: Israele ha bombardato Gaza dopo un lancio di razzi dalla striscia che non risulta abbia provocato danni. Il bombardamento a Gaza ha causato almeno 27 morti palestinesi, tra cui 9 bambini, una donna, e ci sono anche 115 feriti. Due donne israeliane sono state uccise ad Ashkelon da un lancio lanciato da Gaza. Israele ha ucciso 3 comandanti militari del Jihad. E tra le altre cose, in un video girato ieri, che era il 10 maggio, pochi minuti dopo il bombardamento, si vedono scene estremamente cruente di feriti e morti civili per strada, vicino ai propri mezzi. E il lancio di razzi da Gaza verso Israele ha avuto inizio esattamente al termine dell'ultimatum sancito da Hamas per il ritiro dei soldati israeliani dalla spianata delle moschee. Dopo il bombardamento di Gaza, Hamas e Jihad concentrano i lanci di razzi sulla città israeliana di Ashkelon, dove hanno provocato alcuni feriti. Un cessate il fuoco appare ancora lontano. Netanyahu ha dichiarato: Israele risponderà con grande forza. Non tollereremo attacchi al nostro territorio, alla nostra capitale, ai nostri cittadini o ai nostri soldati. Un'escalation, ha aggiunto, potrebbe durare un po' di tempo. Parole che ovviamente lasciano presagire ciò che avverrà nelle prossime ore. Intanto a Gerusalemme sono violentissimi scontri che hanno raggiunto l'apice dopo giorni di tensione, anche a causa della cosiddetta marcia delle bandiere, durante la quale coloni nazionalisti di estrema destra hanno sfilato con bandiere israeliane nei territori della città per rivendicare l'occupazione dell'intera Gerusalemme, iniziata nel 1967. Nonostante fossero già tante le proteste e gli scontri con i palestinesi che manifestavano contro le confische di Sheikh Jarrah, soprattutto sulla spianata delle moschee, non è stata impedita la marcia degli estremisti israeliani nel giorno di Gerusalemme. Le proteste e le tensioni hanno avuto tutto inizio a Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme. Oltre alle manifestazioni dei palestinesi contro le confische e gli espropri, si sono svolte manifestazioni partecipate anche da ebrei israeliani, che hanno sfilato accanto agli arabi per protestare contro gli espropri. Una società immobiliare che fa capo ai coloni israeliani, infatti, reclama nel quartiere di Sheikh Jarrah, nella zona araba occupata della città, la proprietà di terreni appartenenti ad ebrei prima della fondazione dello Stato di Israele. Lo stesso diritto non viene riconosciuto a palestinesi che avevano case e proprietà nella zona ebraica. A weapon makes you tougher, but in Palestine, kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So why import Israeli products? I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine, and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Israel is funded by many, including Obama. Then they say that the bigger threats came from Osama. That's not true. Most of that stuff is lies. They don't show how hundreds die overnight. Can you imagine if that was one of us? Houses, families all blown down to dust. Many being kidnapped and virgins being raped. Many have been injured but none receive any aid. Is taking a life really worth it for just some land? Those who drink from Starbucks surely don't understand. More Israeli goods being sold means more weapons. More bullets that kill Palestinians every second. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven. Cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Bene Davide, ritorniamo in diretta. Ci sei Davide? Sì, sì, ci sono Michele. Ci sono. Volevo tornare in diretta giusto riprendendo anche le parole di una compagna di Gaza dal suo profilo Facebook, Mary Calvelli, che poi una grande compagna cooperante che ci ha permesso anche di entrare nella striscia due anni fa, e che dice, ve lo leggo perché secondo me tocca bene il punto e il nocciolo della questione. Hanno chiamato quest'ultima operazione militare i guardiani del muro, non poteva avere un nome migliore, azzeccato nella sua lucidità della follia dell'occupazione. Da ieri, 10 maggio 2021, anniversario della vittoria dell'occupazione del 67 dei territori palestinesi, niente da festeggiare, una disgrazia che continua fino ad oggi. Partono i missili da Gaza dopo un lungo ultimatum di Hamas, poi iniziano i bombardamenti. Sono i commenti che era da tanto tempo che non accadeva, visto che non accadeva un botta e risposta così pesante. Purtroppo era nell'aria, così come era nell'aria proseguivano da oltre un mese attacchi alla moschea, invasioni barbariche di coloni, sgomberi di case palestinesi su Gerusalemme e distruzioni di abitazioni con relativo esproprio di terreni, alberi e aree agricole. Tutto dentro la logica di continuare ad occupare, a colonizzare, sbattere fuori la Palestina e quel che ne rimane. Certo, la povera striscia di Gaza deve pagare il prezzo più alto, perché lì dentro ci sono i terroristi. Ci sono solo terroristi, così come vengono definiti dai nostri media. Ormai né più Israele li definisce tali. Sa che sono solo forti e si difendono come possono. Ma i nostri media no, non ne vogliono sapere. E quindi si lascia intendere che debbano pagare il prezzo più alto. Non fa niente se muoiono bambini o civili. Gaza è una questione politica che fa comodo tenerla pronta al momento del bisogno, quando le proteste internazionali si fanno troppo pericolose, quando qualcosa comincia a girare e potrebbe essere messo in discussione un sistema. Beh, allora si muove Gaza e tutto l'apparato. Tanto è sempre colpa di Gaza, dei suoi missili, delle bombe che riceverà. È così che continueranno a giustificare e a mantenere l'occupazione. La pace non ne hanno bisogno, nessuno vuole la pace in questa regione. Beh, penso che queste parole siano state, al di là che per me leggere sono toccanti, anche perché fanno venire in mente alcuni ricordi legati alla striscia di Gaza. Però penso che vada al nocciolo della questione. Sembra che sia tutta colpa di Gaza, sia tutta colpa dei razzi di Hamas, quando si dimentica che i razzi di Hamas sono stati una risposta alle continue azioni coloniali di Israele, a quello che è avvenuto in questi giorni e che avviene tutti i giorni in Palestina. E soprattutto a me quello che ha fatto maggiormente sdegnare Michele, non so se poi i nostri ascoltatori, i nostri avranno visto i video che girano in rete, oltre il video del bombardamento di Gaza, della scena dei cadaveri e dei morti civili, che è evidente che se tu spari in mezzo ai palazzi colpisci dei civili. Quello che mi ha fatto più sdegnare, che dove provavo proprio ribrezzo da queste immagini, era queste immagini di questi coloni invasati che stavano al di là del muro a cui si vedeva la spianata delle moschee in fiamme, questi invasati ultra ortodossi, questi coloni, no? Che festeggiavano e saltellavano con le bandiere perché vedevano bruciare dall'altra parte la moschea di Al-Aqsa a causa della repressione che c'è stata l'altro giorno. E questa era un'immagine proprio che fa capire qual è il livello e fa capire appunto la tristezza, vede, ci viene soprattutto quando viene raccontata il contrario di quello che è. Far passare la potenza occupante come la vittima della situazione e dimenticare e comunque soffocare il diritto di qualsiasi popolo, ossia il diritto a resistere con ogni mezzo necessario. Qualcuno può dire sì, la violenza non è mai bella, noi non è che invochiamo la violenza, invochiamo le armi o il sangue, questo mai, non invocheremo mai, siamo uomini di pace anche se non siamo pacifisti, però non si può paragonare una pietra ad bombe è un armamentario così sofisticato tale per cui Israele è il quarto esercito più forte al mondo. Dall'altra parte ci sono dei razzi Qassam che questa sproporzione di forze ci fa capire che non si può dire che Hamas oppure la striscia di Gaza sta attaccando Israele. È Israele che occupa da 73 anni la Palestina, è Israele che non fa entrare le più elementari materie prime nella striscia di Gaza, è Israele che occupa e caccia le famiglie palestinesi da Gerusalemme Est. Però Israele questa volta, come faceva notare anche Chiara Cruciati e Michele Giorgio in questi nei loro report, soprattutto Michele, che visto che si trova proprio a Gerusalemme, questa volta non avevano fatto il conto che questo continuo a rivendicare questa sovranità su Gerusalemme ha realizzato un qualcosa che non si verificava da parecchio tempo, perché le manifestazioni, ci sono state delle manifestazioni forti che sono avvenute soprattutto nelle città arabe in quello che è lo Stato di Israele. La prima volta si è creata una saldatura tra, o meglio, si è creata una maggiore saldatura, non è la prima volta, però si è creata una maggiore saldatura tra i palestinesi residenti in Israele e i palestinesi dei territori occupati rispetto alla questione di Gerusalemme. L'Occidente nel frattempo gira la faccia dall'altra parte e chi si erge a paladino della Palestina, ne parlavamo prima della trasmissione, Erdogan. Il caro Erdogan, a noi non caro, però il problema è appunto questo, generando ulteriori contraddizioni. È l'unico paese che si è schierato, i paesi arabi invece sono tutti impegnati nella normalizzazione dei rapporti con Israele, a pagarne le spese sono i palestinesi. Per una leadership incapace di controbattere il proprio nemico, meno sul lato diplomatico, Abu Mazen ha rinviato le elezioni quando poteva dimostrare al mondo intero che l'apartheid di per sé non prevede la democrazia, anzi ne abbiamo avuto la dimostrazione 15 anni fa quando i palestinesi avevano scelto un governo che non piaceva all'Occidente. All'Occidente non ci piace la democrazia, gli piace solo propagandarla come una parola vuota, priva di sostanza, e Abu Mazen ha avuto paura di perdere la sua leadership perché è sicuro che sarebbe stato eletto come presidente Barghouti, ma questa elezione avrebbe scombussolato le carte in tavola. Anzi, avrebbe dimostrato al mondo intero che Israele, quale potenza occupante, non avrebbe fatto svolgere le elezioni a Gerusalemme, e si poteva bypassare questo divieto in tanti modi se c'era la volontà. Ma dall'altra parte questo è stato il pretesto giusto, come dicevano in molti, e come sostenevano anche loro stessi. Io sono stato qui a Milano al presidio per la Palestina organizzato dall'API sabato scorso, e un presidio molto carino perché c'era una forte presenza di ragazze della comunità palestinese, araba, che comunque molto determinate, sottolineava proprio il fatto che Abu Mazen ne aveva lasciati soli, ne aveva lasciati soli, però allo stesso tempo tutti i palestinesi si sono mobilitati. Anche le notizie che arrivavano ieri in concomitanza con i bombardamenti che avvenivano a Gaza erano quelle di una mobilitazione popolare in tutti i territori occupati. Infatti arrivavano immagini e fotografie da Betlemme, dove c'erano stati scontri al checkpoint, c'erano stati anche arresti un compagno di Aida Campo, e quindi la situazione resta tesa, e siamo sicuri che comunque questa situazione non finirà qua, anche perché Netanyahu ha mobilitato ulteriori militari, e le parole che ha usato nei confronti le parole che ha usato erano esplicative della volontà da parte di Netanyahu di continuare in questa direzione, e quindi sarà un'operazione militare che non si fermerà. Anzi, voglio leggervi proprio le sue dichiarazioni. Sono state, questo ce le riporta lo stesso Michele Giorgio 3 ore fa, gli arabi israeliani, i palestinesi con cittadinanza israeliana, hanno agito in maniera selvaggia. Attueremo ordine e calma, ordine e legge. I loro leader devono condannare violenze e riportare la calma. Riferito al sostegno che vi dicevo prima, dato dai palestinesi di Israele alle proteste a Gerusalemme, che quindi stanno facendo tremare un po' Netanyahu, ma quello che vi volevo dire rispetto ai bombardamenti era appunto quest'altra dichiarazione, sempre di 3 ore fa, dove afferma che Israele intensificherà ulteriormente la potenza ed il ritmo degli attacchi contro Gaza. Siamo nel mezzo di una campagna militare, ha aggiunto, e da ieri pomeriggio l'esercito ha eseguito centinaia di attacchi, abbiamo colpito comandanti e obiettivi di alta qualità, rivendicando in sostanza la morte dei 3 leader del jihad islamico, però dovrebbe anche ricordarsi dei 9 bambini uccisi durante i bombardamenti israeliani. Sì, Davide, oltretutto... come ricordavi, la situazione è estremamente complessa, e oltretutto sullo sfondo c'è pure appunto la situazione delle elezioni palestinesi, che sono state rinviate per l'ennesima volta. Ormai è palese quanto Abu Mazen abbia paura, insomma, di perdere il primato all'interno della leadership. Peccato che purtroppo ormai quella leadership non rappresenta affatto i palestinesi, e certamente non potrà in qualche modo guidare i palestinesi verso le giuste ambizioni di autodeterminazione. Tra l'altro, un ragionamento che facevamo prima nel fuori onda, come accennavi tu prima, questa volta, perché purtroppo, e lo ricordiamo, le escalation militari nella striscia di Gaza e nei territori occupati ce ne sono state decine nel corso di questi oltre 70 anni di occupazione. E però il problema fondamentale è sempre lo stesso, che l'informazione tossica che ci arriva fondamentalmente cala un velo rispetto ad un concetto. A questo giro non si sono nemmeno preoccupati di mostrare minimamente la cosiddetta equidistanza, che molto spesso viene usata ipocritamente per girarsi dall'altra parte di fronte all'apartheid, alla pulizia etnica, eccetera. Ma oltretutto, quello che viene costantemente fatto, non si dice che fondamentalmente, secondo anche il diritto internazionale, un popolo che viene invaso, che viene occupato, ha il diritto legittimo di difendersi con tutti i mezzi necessari. Vabbè, con tutti i mezzi necessari lo aggiungo io ed è una citazione. Però il discorso qual è? È sempre lo stesso, che in realtà quando si parla del lancio di razzi da Gaza, dalle manifestazioni, eccetera, fondamentalmente non si parla di quello che è l'occupazione, non si parla dell'apartheid, non si parla del fatto che magari i palestinesi hanno anche ragione a ribellarsi, ed anzi forse è arrivato da un lato anche il momento, dall'altro, come dici tu, noi certamente non ci auguriamo un bagno di sangue, anche perché purtroppo il rapporto di forze è impari, come dicevi, non si può paragonare una pietra a un carro armato di ultima generazione che costa centinaia di milioni di dollari. Fondamentalmente, il problema sta tutto lì, che da un lato c'è l'Occidente che si gira dall'altra parte e fa spallucce di fronte all'apartheid, alla pulizia etnica, ed anche e soprattutto fa affari d'oro con questi torturatori di bambini e criminali di guerra. E nel frattempo, insomma, noi ci troviamo di nuovo ad assistere all'ennesima escalation militare. A Gaza piovono bombe. Nel frattempo, i nostri media ci dicono che fondamentalmente il diritto legittimo di Israele a difendersi, però evidentemente c'è il diritto legittimo dei palestinesi di difendersi, così come del resto è avvenuto in Italia quando c'è stata l'occupazione nazista, la lotta partigiana. Gli occupanti nazisti chiamavano i partigiani terroristi, li chiamavano banditi, li chiamavano terroristi, però fondamentalmente erano partigiani. La stessa cosa avviene oggi in Palestina. L'occupante, che poi è quello che purtroppo scrive la storia, almeno in un certo modo, ci racconta proprio questo, cioè ci racconta che i palestinesi non hanno diritto all'autodeterminazione, non hanno diritto anche a difendersi di fronte all'apartheid, all'occupazione, ma anzi, al contrario, esiste solo il diritto di Israele di difendersi, bombardando fondamentalmente Gaza, che è uno dei posti con la densità abitativa più elevata al mondo, e presentandole come delle operazioni militari lanciate per uccidere il militare della Jihad o di qualche altra fazione. Però fondamentalmente, come dicevi, è normale che se spari in mezzo alle case, altro che bombe intelligenti, come la canzone dei Bisca 99 Posse, è inevitabile fare vittime civili, che è proprio quello che vuole Israele, del resto è questo l'obiettivo. E tra l'altro, poi magari facciamo una pausa musicale. Una cosa che va chiarita è da dove nascono tutti questi disordini. Nascono proprio dal fatto che ancora una volta la macchina dell'apartheid aveva generato l'ennesima ingiustizia a danno dei palestinesi, cioè un intero quartiere espropriato ai palestinesi, che sono stati cacciati dalle loro case dagli occupanti, dai coloni fondamentalmente. E anche lì, cioè, quasi scompare il diritto legittimo dei palestinesi a rivendicare la propria terra, i propri diritti che vengono calpestati, da più di 70 anni. شويه والله العبر ع بيروت واحب البيروتيه ضلني اعذبها تتموت من قهر شوي. Bene, prima di chiudere la trasmissione, visto che mancano pochi minuti, dopo le tante prese, diciamo, dopo gli articoli e questa opinione faziosa, tutta questa opinione pubblica faziosa che si tenta di alimentare rispetto a quello che avviene in Palestina, c'è almeno qualcuno che comunque prende una posizione, anche se la sappiamo che è scontata, però fatta da lui va avere un valore diverso, in quanto Monio Vadia ha affermato che appunto il virgolettato è suo, ripreso da Andronos, che la politica di Israele è infame e senza pari e strumentalizza la Shoah. Infatti afferma che la politica di Israele è segregazionista, razzista, colonialista e la comunità internazionale di una parzialità di pugnale. Tranne qualche rara eccezione, paesi come la Svezia e qualche paese sudamericano, non si ha lo sguardo per vedere che le condizioni del popolo palestinese è quella del popolo più solo, più abbandonato che ci sia sulla terra, perché tutti cedono al ricatto della strumentalizzazione infame della Shoah. Tutto questo con lo sterminio degli ebrei non c'entra niente, è pure strumentalizzazione. Oggi Israele è uno stato potentissimo, armatissimo, che ha per alleati i paesi più potenti della terra e che appena fa una piccola protesta tutti i paesi si prostrano, a partire dalla Germania con i suoi terrificanti sensi di colpa. L'attore, musicista e scrittore di origine ebraica, quindi ha preso una posizione netta, ma una posizione che lo contraddistingue da parecchio tempo, è proprio questo continuo richiamo alla Shoah e qualsiasi strumentalizzare come qualsiasi critica di Israele come antisemitismo, che è la scusa utilizzata appunto per affinché non ci sia nessuno che critichi l'entità sionista, non ci sia nessuno che metta in discussione l'apartheid, e solo noi con le nostre mobilitazioni, con la nostra voce, possiamo dare un'informazione corretta, perché sappiamo che chi si batte contro le ingiustizie non può non essere dalla parte dei palestinesi, e purtroppo bisogna combattere, come in ogni campo ovviamente ci scontriamo contro un'informazione di parte. Sta a noi dare solidarietà e sostegno alla Palestina. Ci saranno molte mobilitazioni in questa settimana, che coinciderà infatti il giorno 15 con la Nakba, e quindi si prevedono ulteriori giorni di proteste, e ci saranno mobilitazioni in quasi tutte le città italiane. Cerco di farvi un breve elenco. Qui a Milano parteciperò alla manifestazione che ci sarà giorno 3, giovedì, in piazza Duomo alle 17:30. Giovedì ci sarà una manifestazione anche a Genova, o meglio il giorno prima ci sarà una manifestazione a Genova, giorno 14 ci sarà la manifestazione a Cagliari, giorno 15 a Padova, a Roma, a Napoli, a Firenze, a Brescia, a Catania e anche sicuramente qui a Salerno. Ovviamente in questi giorni deciderà nello specifico l'orario e tutto, quindi vi terremo informati con ogni mezzo a nostra disposizione, con i nostri potentissimi mezzi, e quindi diciamo che il popolo solidale con la Palestina si sta muovendo. È ovvio che la situazione si prospetta una situazione abbastanza drammatica, e quindi è nostro compito schierarci senza se senza ma a fianco della resistenza palestinese, perché non si può restare a guardare, non si può essere imparziali, e bisogna chiamare le cose con il loro nome, soprattutto in questo momento in cui c'è la Corte Penale Internazionale che indaga per crimini contro l'umanità per Israele durante per le sue scorse operazioni militari, sebbene indaghi per crimini e indaghi anche per apartheid, sebbene poi indaghi anche per crimini da parte di Hamas, ma Hamas non ha fatto nessun problema a far entrare i giudici della Corte, mentre Israele aveva vietato i visti in più occasioni, sta ostacolando l'opera della Corte Penale Internazionale, sta ostacolando tutte quelle campagne di mobilitazione, soprattutto quelle campagne di denuncia, o meglio, che si sono sostanziate in questo report di Human Rights Watch. Noi ci teniamo a sottolinearlo non perché ci piacciono queste ONG o siamo di parte per questo o quell'altra, anzi in alcuni casi le abbiamo più volte criticate, ma essendo una ONG americana e che ha un certo peso, parlare di apartheid assume un grande significato, soprattutto alla luce, ripeto, dell'indagine della Corte Penale Internazionale. Quindi credo che queste mobilitazioni debbano essere contrassegnate da questi aspetti, rivendicare il fatto che a Gerusalemme Est stiano commettendo crimini di guerra, perché si tratta di crimini di guerra quello che sta facendo Israele, e rivendicare l'apartheid israeliana, perché quella in Israele è apartheid. E solo chi non vuol vedere la vuole chiamare in un altro modo e la vuole chiamare la migliore democrazia del Medio Oriente. Sento a volte persone. Sai, mi è capitato di parlare con persone che poi non sono dentro le cause. Sai, sono stato in Israele, io dicevo sei stato in Palestina, e che non hanno nemmeno avuto la percezione, cioè, o meglio, hanno avuto una percezione distorta di quello che è la situazione lì. Cioè, sono cose dell'altro mondo, cose che non si possono sentire. Forse noi le viviamo con maggiore sdegno proprio perché seguiamo la Palestina da tanto tempo, abbiamo avuto modo di toccare con mano questa realtà ma quello che accade in Palestina non è distante da quello che accade in casa nostra perché chi legittima l'apartheid legittima anche la repressione in casa nostra i sistemi di videosorveglianza utilizzati da Israele nei territori occupati per sorvegliare i palestinesi e per reprimerli vengono utilizzati nelle nostre care città il filo spinato utilizzato dai posti di blocchi israeliani viene utilizzato in Val di Susa, quindi tutte le intelligenze e la tecnologia israeliana e il governo italiano e i governi europei, ricordiamolo che Israele partecipa a Horizon 2020, che è un programma dove vengono finanziati progetti di un certo che valgono molti soldi e soprattutto implicano una più stretta cooperazione dagli stati. Uno stato che applica l'apartheid non è, crediamo, debba essere boicottato e dovesse essere tenuto fuori da qualsiasi luogo internazionale, cioè da qualsiasi rapporto diplomatico con questo paese. È ovvio che non è che ci aspettiamo che il governo italiano cambia posizione alla luce della nota della Farnesina, però sta a noi fare pressione sui nostri governi perché senza la libertà dei palestinesi la nostra libertà è incompleta, come diceva Nelson Mandela. E quando parlano di pace, io direi di ricordare le parole di Barghouti che dal carcere ha sempre detto che l'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno della pace. Se veramente vogliono la pace Stati europei vogliono la pace, la comunità internazionale, allora mettiamo fine all'occupazione e mettiamo fine all'apartheid. Sì, ben detto, Davide. Noi purtroppo siamo giunti quasi alla conclusione di questa puntata di Andala, infatti tra poco vi saluteremo e quindi purtroppo non abbiamo avuto molto spazio, era giusto dare spazio alle notizie sulla Palestina. Però purtroppo proseguono i duri scontri che stanno avvenendo in Colombia, dove appunto in seguito a questi scioperi c'è stata questa rivolta di popolo fondamentalmente. Magari entreremo nello specifico nelle prossime puntate, perché anche quello è un tema su cui vale la pena di ragionare insieme, altro che. E nel frattempo, giusto così come notizia di chiusura, Davide, come quella che ti dicevo nel fuori onda, è praticamente ieri una nave statunitense ha sparato colpi di avvertimento verso imbarcazioni iraniane, Questo è avvenuto nello stretto di Hormuz e lo riferisce Pentagono. Infatti, secondo una ricostruzione, queste navi militari americane stavano scortando un sottomarino e quindi sono state confrontate da una decina di imbarcazioni iraniane che poi si sono allontanate. Queste sono le dichiarazioni, Davide. Detto questo, io darei appuntamento alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori alla settimana prossima, martedì prossimo alle 19, con un'altra puntata di Andala. Buona serata. Buona serata. Come suonava di stella Betlem, come suonava di stella. E come suona fumagare Stefanes, come suona fumagare Stefanes, thank you. E canta, canta, canta, canta con tambur. E canta, canta, canta, canta Palestina, canta la speranza, e che speranza campa, risperata in un mondo.